Oh! cuore, io mi tengo dopo la carata e vai ad aprire, non lo trovare. Circolo! Corro eccellenza! quel luogo orrendo avea lasciato sul

a quell'uomo vedesti il suo nome. Non amendo. Vicino provo, sforzati, cerca. Cerca. Cerca. Non trovo. Cerca. Sciocco, e soffrire il mio vento, il mio forse. Il giorno di Natale, l'oro sulla soglia, loco con quell'uomo. Seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'han preso. Signora. La divina. Thank you. voi o per gli amici? Chi lo sa? Grazie! Grazie! Addio! ebbene, sì, l'uccisi.

canto mio dell'età. Thank you. posta, attendo alcune lettere dirette a mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Sceso all'albergo d'Inghilterra, odo parlar di voi, salgo in biciclo, Diego, mi cerco, trovo, ed eccovi. Siete molto gentile, un fior di cortesia. Artista, Boleslao, non me ne parlate, perché? Amico mio, un altro disinganno, di già, figlio destino, la pazza dell'arrivo, come una volta in Russia, Boleslao, un vero arcangelo, amate molto.

Mia madre e mio fratello

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you. come? Se tu mentissi, i mediti ancora, chi mi dà la certezza? Lui stesso lo dimero. Ecco la prova, leggi. Anima mia, la sua scrittura. Ella fuggì.